la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, caro ascoltatore di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio di essere qua in ascolto. Grazie poi a quelli che continuano anche a sentirci, scaricandoci in ore diverse da questa, non essendo loro possibile in diretta perché lavorano o hanno altro da fare. Allora, vado subito come sempre al tema della giornata. In questo martedì 25 marzo, sono le 16:35, 38 secondi, quelli degli studi Radio 24 di Milano, per consentire a qualcuno di raccontarci qualche storia analoga al tema che oggi affrontiamo o per darci un'opinione. Il tema è la lentezza della giustizia ordinaria, di quella civile, di quella penale e naturalmente di quella tributaria. Oggi abbiamo un ospite che ci racconterà un caso assolutamente eclatante. C'è una tale sproporzione tra il merito della vicenda e ciò che è condannato a pagare che sentirete e vi farete un'opinione. Però l'Italia è fatta di questi casi paradossali che non sono eccezioni, ma sono molto più spesso la regola che l'eccezione. Volevo solo dirvi l'opinione in breve su due fatti della giornata. Il primo riguarda anch'esso la giustizia. Ed è per me, lo ammetto, anche una piccola punta personale nel constatarlo, perché nel giudizio di appello che riguarda Dolce e Gabbana, i due grandi stilisti che l'anno scorso furono travolti sotto l'accusa di evasione fiscale, con campagna sui giornali, loro comprarono pagine a pagamento sui giornali per spiegare la posizione della loro azienda. Io all'epoca, come giornalista, guardando le carte, le cose che venivano contestate dall'amministrazione tributaria e poi il reato penale, scrissi che, a mio modestissimo giudizio, l'allocazione di quei marchi di Dolce & Gabbana in una società regolarmente dichiarata in Lussemburgo era del tutto consentito dal nostro ordinamento, che consente di fare un arbitraggio fiscale tra ordinamenti anche più vantaggiosi se si fa tutto alla luce del sole, lo si dichiara come esattamente era in quel gruppo. Per aver scritto questa cosa sono stato riversato di tonnellate di insulti, e gli assessori della giunta Pisapia dichiararono che a Milano non c'era spazio per gli evasori Dolce e Gabbana. Bene, oggi nel processo di appello il procuratore generale di Milano Santamaria, quindi il rappresentante dell'accusa, si è prodotto in una ringa nella quale dice: Dolce e Gabbana sono un'azienda straordinaria, ciò che hanno fatto è pienamente lecito, consentito dal nostro ordinamento, era tutto sotto la luce del sole, hanno pagato le tasse, sono un esempio e quindi chiedo l'assoluzione piena perché il fatto non sussiste. Allora, mi aspetterei che a questo punto gli assessori della giunta Pisapia, che dicevano che non c'era spazio a Milano per gli evasori, la prossima volta si informino e leggano prima di mettere il timbro da servi dello Stato, che va bene, perché è benissimo essere servi dello Stato, ma servi dello Stato ladro quando sbaglia gli argomenti e ci divide tra presunti evasori, ci consegna la testa di presunti evasori famosi. Io penso che si debba sempre leggere le carte. Viva il procuratore generale Santamaria, che invece fa il suo mestiere di magistrato e chiede scusa nella ringa, non chiede solo la soluzione, ma dice: sì, forse ci sarebbe da imparare da questi signori. Ecco, ogni tanto succede in Italia. Seconda cosa, fatto del giorno: il ministro Madia oggi dichiara stamattina che per gli eventuali esuberi della pubblica amministrazione, avete letto anche voi che si parla di 85.000 secondo le cifre di Cottarelli, forse esuberi nella pubblica amministrazione, e che lei dice non bisogna chiamare esuberi, non saranno 85.000 eccetera eccetera, a un certo punto se ne esce e dice: io sono per i prepensionamenti in deroga alla legge Fornero, perché bisogna fare spazio ai giovani. Ah sì? Ma come, a milioni di disoccupati privati rimasti senza lavoro in quest'Italia, noi raccontiamo che solo ai dipendenti pubblici diamo il prepensionamento in deroga alla Fornero perché basta essere dipendenti pubblici? Vedete, in questo caso, e la stessa cosa è stata chiesta per 4.000 unità dipendenti del Comune di Roma dal sindaco Marino ieri. Allora, io la reputo una cosa intollerabile di fronte a milioni di disoccupati dipendenti privati a tempo determinato, indeterminato, con qualunque contratto, dire che i dipendenti pubblici si beccano il prepensionamento mentre i dipendenti privati stanno per strada. Io la penso così, magari voi direte che sono eccessivo, però per me è una questione di elementare giustizia. Se poi bisogna fare spazio ai giovani, allora perché non prepensioniamo tutti? A spese di chi? Chi paga queste cose? Le paghiamo noi, come sempre, per i pubblici, come per gli 8 anni dati di prepensionamento, anzi 8 anni di cassa integrazione in deroga prima del prepensionamento ai dipendenti all'Italia, che andava salvata per Intesa, visto che era fallita pubblicamente e sta rifallendo ai privati a cui è stata data. Ecco, è fatta di queste asimmetrie l'intollerabile, secondo me, condizione italiana. Ed eccoci alla simmetria del giorno e presentiamo il nostro ospite che ci racconta questa incredibile storia. Si chiama Ilan Browner, è un medico trevigiano, oramai in pensione, fa il consulente, il cognome e il nome in realtà richiamano un'ascendenza ebraica, è stato anche in Israele e si trova a dover pagare per uno stage di pochissime settimane fatto fare a una aspirante segretaria, poi non rivelatasi all'altezza, in poche settimane del 2003, quindi 11 anni fa, l'autunno del 2003, questa segretaria non era all'altezza, è stata congedata dopo poche settimane di stage. Poi parte anni dopo una vicenda e poi la giustizia ha tempi tali per cui adesso gli chiedono di pagare per quella vicenda €500.000. Buon pomeriggio Ilan Browner, grazie di essere qui con noi. Pomeriggio a voi, grazie, signor Scar. Allora, sono israeliano prima di tutto. Ah, quindi il passaporto resta israeliano, non è italiano? Sì, il passaporto israeliano, sono nato in Palestina, Israele adesso, quindi ho 75 passati, ma sono attivo, punto. 11 anni fa aveva ancora lo studio e le arriva questa signora segnalata da un amico per vedere se era all'altezza di fare la segretaria. Esattamente, è stata presa per poterla iniziare l'attività lavorativa, per vedere se poteva fare la segretaria. Si è rivelata subito che lei non aveva nessuna dimestichezza con il computer, sapeva sì Olivetti 22 ma non oltre. Abbiamo pensato di darla un'assistenza, una ragazza dello studio, proprio per favorirla, per vedere se poteva acquisire quelle notizie necessarie per almeno di poter aprire e chiudere un computer. Sì. E questo era a cavallo di Capodanno. Sì, cioè, tra il 2003 e il 2004. Sì, fino a novembre, poi lo studio si è chiuso verso il 20 di dicembre. Quindi abbiamo detto grazie, però non possiamo tenerti, quindi non potrai acquisire quello che abbiamo bisogno. Se vuoi possiamo darti un computer a casa, imparerai da solo, ma qui non possiamo. Allora, questa... Abbiamo anche dato la possibilità di lavorare in un'altra azienda, sì, del gruppo di famiglia, che l'avrebbe dato un'attività diversa, semi commerciale, semi brigaticcia, la società che commercializza sali fanghi del marmotto. Lei ha rifiutato, ha cominciato un contesto con il CGL, è stata pagata per un mese dell'attività perché volevamo farla un buon anno, diciamo. E CGL ha chiesto alcuni mesi di mancato avviso formale, la cosa è andata dopodiché alla commissione provinciale, tanto seguito sempre dai nostri consulenti che potevano essere più avveduti un po' e capire che mancava l'atto principale, che sarebbe licenziamento, che la legge vuole, con lettera raccomandata ricevuta di ritorno. Scritto, mentre lì fu un avviso verbale. E comunque questo contenzioso, visto che poi riconoscete un assegno eccetera eccetera, si risolve, e siamo già arrivati a questo punto alla primavera del 2006, in una differenza tra ciò che voi gli avete corrisposto dopo che la signora era andata a fare ricorso assistita dalla CGL e ciò che veniva considerato come un diritto, come impiegata di quarto livello. Stiamo parlando di 4 settimane di stage, l'impiegata di quarto livello viste le mansioni, una differenza di €2.362. E questo è il punto in cui diciamo inizia la vicenda giudiziaria. Cosa sia legale con il Tribunale del Lavoro, che qui è il caso, perché i tribunali, diciamo, causa penale, causa civile, fallimento, hanno i loro tempi. Sì. Si devono seguire determinato iter che dipende dal numero dei testimoni, eccetera. Qui invece è causa diciamo, di lavoro, che abbiamo visto normalmente si risolve entro 6 mesi, un anno. Abbiamo visto quello della Fiat, per esempio, a Napoli si è risolto velocemente. Questo qua invece si è trascinata, quando era della prima seduta era già chiaro, abbiamo anche dichiarato, non abbiamo fatto raccomandata ricevuta di ritorno. E qui si poteva chiudere Isabar regolarmente. La sede del tribunale, il giudice del lavoro era dove, l'ufficio del tribunale del lavoro? Di Treviso. Treviso. La sentenza non si può dare nulla perché è, diciamo, sentenza regolare, perché certo, si basa certo. sul criterio di legge, sì. quindi va rispettata, però va rispettata considerando che ha tirato avanti 7 anni. Adesso ci sono 2 possibilità qui da dire. Uno, nel caso che una persona rifiuta la lettera ricevuta di ritorno, quindi è aperto, però lì una finestra aperta della legge. Secondo, se la causa durava 10 anni o 15 anni o 20 anni, per motivi vari, può essere trasferimento di giudice, giudice donna che rimane in stato interessante, maternità, malattia, chiusura di sezione, passare a un'altra certo. sezione, eccetera. Quindi causa di lavoro, che normalmente è una causa velocissima, è andata avanti a lungo. E il giudice, infatti noi non abbiamo appellato questo, perché i pareri erano qui, la sentenza è giustissima. La legge vuole così, non è stato fatto, però questo si poteva vedere già dall'inizio. Certo, il problema è però che negli anni accumulati in attesa di questa sentenza per la mancanza di un atto formale, dopo uno stage di poche settimane di una persona che non aveva i requisiti minimali per fare la segretaria, a quel punto la giustizia non solo ci mette anni, ma incorpora nel dovuto alla signora tutti gli anni che sono passati, ed ecco perché da 2.362 euro il Ambrauer viene praticamente condannato a pagare 500.000 euro, a cui a quel punto si sommano gli interessi di mora, Equitalia, eccetera eccetera. Ma adesso siamo in ritardo, facciamo 60 secondi di informazione stradale e poi torniamo su questo caso pazzotico. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:47 primi e 31 secondi. Lo sapevo, sarebbero arrivati molti sms relativi a ciò che vi ho detto delle parole del ministro Madia questa mattina sul prepensionamento per gli esuberi pubblici, perché bisogna fare spazio ai giovani. Voglio leggerne solo alcuni. Per esempio, un messaggio dice: Oscar, quegli ipotetici 85.000 dipendenti pubblici lì non si possono licenziare, hanno contratti di ferro, sono i protetti. No, guardate che nel nostro ordinamento esiste anche per i dipendenti pubblici la procedura fino alla mobilità per gli esuberi, esattamente, con qualche piccola differenza, ma esattamente come per i dipendenti privati. Il problema è che non viene mai adoperata, perché ovviamente i politici che stanno in testa all'amministrazione da cui dipendono preferiscono altre soluzioni. Per me resta scandalosa l'ipotesi di prepensionamento ai dipendenti pubblici, questa resta la mia idea, io non riesco a capire come possono immaginare di giustificarla di fronte a milioni di italiani che sono senza lavoro, senza pensione, eccetera eccetera, e stanno per strada. E infatti la maggioranza dei messaggi purtroppo mi conforta in questa opinione. Non so, Diego da Venezia, 58 anni, disoccupato da 2 anni, con 35 anni di lavoro, con la speranza di andare in pensione non prima di 66 anni, dice: perché a loro sì e perché noi no. Poi chi dice: i bancari, attenzione, i bancari è vero che vengono prepensionati a decine di migliaia in questi ultimi anni, gli esuberi, però loro hanno un fondo che è autoalimentato da banche e anche con contributi, il fondo esuberi bancari, mentre qua stiamo parlando di qualche cosa che verrebbe totalmente a spese della fiscalità generale, eh? Quindi i casi sono diversi, attenti a documentarci prima tutti di parlare. Allora, torniamo al caso di Ilan Brauner, del 500.000 da pagare perché è mancata una lettera formale scritta, come giustamente prevista dal nostro diritto del lavoro, per il licenziamento di fronte a una stagista che è stata poche settimane e non era all'altezza. I DL 2.362 euro, si arriva a 500.000 di euro. Di fronte a questo, la sua reazione, diciamo, di straniero trapiantato in Italia, qual è a questo punto? Lei tira fuori 500.000 di euro? Beh, questo è un argomento che trattano gli avvocati. Trapiantato, io sono dal 59 in Italia, quindi. Poi la legge la conosco perché sono medico legale, quindi sono abbastanza avvezzo ai tribunali, eccetera. E la sentenza va rispettata però nei limiti personali di ognuno, perché anche la sentenza, diciamo, di questa cifra ci sono anche l'INPS, anche l'INAIL. L'Equitalia ha già fatto passo avanti con 104.000 euro di richiesta. Una trentina, quarantina sono l'INAIL, quindi non è solo che dovrebbe andare alla signora. Sì, non c'è dubbio. Però resta il fatto che ci dovrebbe essere una misura, diciamo, proporzionale, ecco, per fondare anche l'equità della sentenza. Molto alta. Ecco, e questo mi sembra che invece sia totalmente contraddetto in questo caso. Sentiamo come la pensano alcuni ascoltatori. Claudio ci chiama da Roma. Prego, Claudio. Buonasera. Buonasera. Senta, parlavo prima con la sua collaboratrice. Io sono sì. dipendente pubblico da 20 anni. Sì. E precedentemente ho lavorato 19 anni in un supermercato. Sì. Quindi conosco le due realtà. Io senti parlare la Maria, veramente mi viene un po' da piangere, perché penso a quello che ho fatto in quegli anni in cui entravo in freezer e portavo scatoloni, cioè insomma si lavorava di brutto, si attaccava le sei col freddo, col caldo. E poi adesso ho notato che effettivamente come impiegato statale, adesso è arrivato quasi a 60 anni con una invalidità del lavoro, ho fatto due protesi d'anca. Comunque io, se dovessi seguire i consigli della Madia, non li seguirei, perché preferirei, forse ho dei valori sbagliati, io preferirei lavorare altri 3 anni in favore di un privato che sta in cima all'impalcatura, che sta zappa la terra, o che lavora in qualsiasi altro posto dove si fatica molto più che impiegato statale. Claudio, io poi posso... E finisco. Sì. Io a lei, caro Giannino, noi ci siamo conosciuti di persona, perché io bazzico Piazza Indipendenza. Va bene. Ma gli ho detto di quale città. Non dico di quale città. Roma, dove c'è la sede anche di Radio 24 del Sud. E poi però io dico questo. Noi ogni giorno vediamo personaggi di malaffare che girano con borsoni pieni di miliardi e noi stiamo qui a elemosinare questi poveri soldi tolti a gente che ha una vita che lavora. Ma quando è che iniziamo a mettere al muro questi Claudio, mettere al muro è un'espressione che naturalmente non posso far passare in radio. Capisco lo spirito, però mettere al muro no, nessuno mai. Enzo da Bologna, prego Enzo. Lorenzo da Bologna. Lorenzo, sì. Chiedo scusa. Le chiedo scusa se esulo un attimo del discorso principale. Per carità. Perché ho sentito prima sì. a proposito di Dolce & Gabbana. Sì. Ecco, allora io mi domandavo com'è possibile che in Italia bisogna arrivare a un secondo grado di giustizia, cioè che un magistrato praticamente, che mi scusi, c'ho un ritorno stranissimo al telefono, faccio fatica. No, noi la sentiamo, prego, proceda. Benissimo. E com'è possibile che ci voglia un secondo grado e sia il magistrato, l'accusa, cioè l'ente inquirente, l'accusa, a riconoscere che Enzo, praticamente gli accusati, i signori Dolce e Gabbana, si erano comportati benissimo e quindi non era neanche... Enzo, perché? No, io do la risposta, perché il giornalista che segue, in questo caso un giornalista che segue da anni le questioni tributarie, perché in materia di... il cosiddetto abuso di diritto, che non esiste come reato nel nostro codice, è stato creato dalla Corte di Cassazione come fattispecie per la quale il contribuente italiano, se alla luce del sole, senza violare alcuna regola, arbitraggia propri asset o redditi alla luce del sole con un'organizzazione internazionale delle proprie società, ponendoli, dichiarando tutto però, senza evadere nulla o nascondere nulla, dichiarando tutto e allocandoli in paesi dove c'è una tassazione inferiore, questa cosa viene considerata un abuso di diritto, un reato, per cui ci sono procuratori per i quali l'allocazione dei marchi in quella società dichiarata a Lussemburgo era un reato da perseguire, quindi evasione fiscale, mentre invece ce ne sono altri, visto che qui la fattispecie è, diciamo, interpretabile a fisarmonica, ma ripeto, era tutto sotto la luce del sole, che come il procuratore generale Santa Maria stamattina dicono è tutto sotto la luce del sole, hanno pagato le tasse ed è un'azienda moderna e il problema è che vive molto, come tutte quelle che fanno moda della credibilità del marchio, io mi credo chi diavolo adesso gliela risarcirà la credibilità del marchio. Tenete conto, io non è che difendo Dolce & Gabbana perché li conosco, perché mi piacciono i loro vestiti, è una questione di principio, vale per il primo come per l'ultimo contribuente questa roba qua di fronte allo Stato, come vale per il caso di cui stiamo parlando, di Lambauer, in cui per 2300 euro e per poche settimane di stage, dove come avete sentito il medico riconosce, è vero, ci siamo dimenticati, non gliel'abbiamo fatta per iscritto, quindi io sono disposto, riconosco, la sentenza è giusta, ma mezzo milione di euro per i ritardi della giustizia, mezzo milione di euro è chiaramente una follia, per così dire. Ecco, allora mi interessa capire questo. Lei ha detto, Ilan, adesso se la vedranno gli avvocati, eccetera, eccetera. Però lei lo sa che in Italia è un po' difficile immaginare a questo punto che qualcuno riprenda in mano la faccenda e gli riconosca che è sproporzionata la condanna a pagare. È stata appellata, quindi. Ecco, quindi le resta. È una materia civile, quindi. ha il suo seguito. Non ha le sue seguito. Appellata e tombale. Ecco. Va bene, io ammiro per certi versi l'equilibrio con cui lei ne parla, perché altri avrebbero usato sicuramente altri aggettivi, ecco, e avrebbero dato giudizi che, come avete sentito, Ilan Browner non dà. Io ritengo che storie come questa dovrebbero tutti farci riflettere, cari amici, e soprattutto pensate ancora cosa ne pensate se davvero prepensionano i dipendenti pubblici di troppo mentre i privati stanno per strada. Pensateci, continuate su Radio 24, grazie di averci ascoltato, grazie a Ilan Browner, e invece appuntamento con me a domani. Money.